Sì, è avanti. Avanti fischio, chi è? Cos'è sordo che è diventato? Chi è? Avanti. Ma la Reci. Francesco, sordo che è diventato. Francesco, sordo che è diventato. E io già.